Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Altro cross, non esce nessuno. Il colpo in testa di Antonelli. Il terzo gol consecutivo. Ancora il capitano del Genoa colpisce. Il fischio Italia-Vento finisce a Marassi. Il Genoa vince 1-0. Prima sconfitta esterna per il Milan. Il Genoa supera il Napoli e sogna la Champions League. E Genoa sogna la Champions League, il Milan un po' meno. Dopo questo pomeriggio è settimo in classifica, 800 24 00 24. Noi siamo qui in diretta fino alle 19 con voi, se vorrete chiamare 800 24 00 24, oppure potete anche scrivere gli sms 349 238 6666. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni. Alle 18 arriva anche Pierluigi Pardo, eh? Ci siamo tutti oggi. Io comunque parlerei del rigore di Turone e del rigore di Ljajic. Parleremo anche del fuorigioco di Turone, del gol di Turone, naturalmente, del rigore di Ljajic. Sì, perché oggi dobbiamo scoprire per chi tifa il sistema, perché ieri sera le nostre certezze hanno vacillato. Le nostre certezze hanno vacillato ieri sera vedendo Roma-Empoli. Oggi però abbiamo assistito alla caduta del Milan 1-0 a Marassi, con la quale il sistema non c'entra niente. Sai cosa aveva detto ieri Inzaghi? Questo Milan non si batte. Davvero? In questo momento è difficile essere più forti di noi. Non l'hanno detto a Gasperini, però in realtà oggi Genoa ha regolarmente vinto una partita che ha meritato di vincere. Non ci stava nemmeno il pareggio per un pessimo Milan. Rimane una classifica nella quale si va avanti e indietro. Anche il Napoli mi pare che non benissimo, con l'Empoli oggi. Gli estratti conto non vanno in campo. C'è un grandissimo Ciapanotti. Faccio sentire subito Gasperini in diretta, microfoni di Sky. Può arrabbiare tutte le domeniche. Si arrabbia e poi dopo i suoi reagiscono. Così. E quindi che fa? Vince il campionato se continua così. Così. Gasperini, complimenti, buongiorno. Grazie, buonasera a tutti. Allora Ilaria, stavamo scherzando perché vedevamo un po' di immagini, dice ma chi ha fatto le azioni solo il Milan? No, le ha fatte anche tante il Genoa, anzi ora gli chiedo, abbiamo visto la classifica, terzo posto, ora che cosa avete? La consapevolezza di essere forti ce l'avete, la consapevolezza che i sogni hanno un sostegno anche con il gioco e i risultati pure? Abbiamo la consapevolezza che certi tipi di partite giocate in questo modo riusciamo a esaltarci e fare prestazioni importanti e dare grande soddisfazione al nostro pubblico, quindi è il Genoa migliore che senza dover fare troppi conti, anche se la classifica è veramente inaspettata, però credo del tutto, per i punti che abbiamo fatto noi ci stanno tutti, sono tutti meritati. Sì, la classifica ve la leggo io: Juventus 35 punti, Roma 32, Genoa 26, due più del Napoli che si è fermato a quota 24, Genoa che è in questo momento più ancora della Samp l'assoluta rivelazione di questo inizio di stagione e ha vinto in maniera strameritata, sì, Carlo, al di là delle sintesi di Sky. Ma non c'è discussione sul fatto che Genoa aveva vinto meritatamente questa partita, non ricordo occasioni del Milan, ma soprattutto il Genoa ha tenuto l'inerzia della partita anche quando era in vantaggio 1-0, cioè non ha mai avuto la sensazione che fosse messo in difficoltà da un pessimo Milan, ripeto, tornato Montolivo. C'era Menez falso 9, poi alla fine Inzaghi ha provato tutti l'arsenale, tranne Torres, però, sì, tutti tranne Torres. Poi discutiamo dell'errore di Bonera sul gol di Antonelli, però io dico, fare un processo a Bonera mi sembra riduttivo. Cercheremo di capire bene questo Milan. A proposito di questa domenica un po' strana, di una giornata un po' strana, perché anche la Roma è andata sotto 2-0, ha rimontato, come il Napoli, ti faccio sentire Benitez, particolarmente deluso. Questo lungo confronto nello spogliatoio, insomma, siete stati più di mezz'ora con la squadra, col presidente De Laurentiis. No, non c'era il presidente. Il presidente era là, ho parlato con lui, dopo ho parlato con il mio staff, dopo con i giocatori. Questo era per dire, è un post partita diverso rispetto al solito? No. Ha ragione Benitez, è il solito post partita di questa stagione del Napoli. È anche il solito Napoli, quando si conferma una squadra terribilmente fragile, perché tre settimane fa era arrivato si era arrampicato per una sosta nazionale al terzo posto e tutti noi a dire ma adesso chi lo toglie più di lì, adesso tutte le gerarchie sono fatte, invece si conferma un Napoli terribilmente fragile, probabilmente più dal punto di vista mentale che dal punto di vista tecnico, e le colpe in questo di Benitez sono evidenti, però è chiaro che non è giustificabile in nessun modo l'atteggiamento del Napoli nelle ultime tre partite. Sì, tantomeno con la questione dei fatturati. Ma dai, ieri conto Benitez non va in campo. Ci ha raccontato che il Napoli è al quinto fatturato. Io aspetto anche gli amici napoletani 800 24 00 24, perché io su questa cosa sono particolarmente sensibile. Benitez ieri mezz'ora a parlarci dei fatturati del L'Empoli Napoli, che fatturato. Oggi ha perso contro una squadra che giocando L'Empoli i fatturati doveva perdere 4-1, ha pareggiato invece 2-2, 14 punti buttati via fin qui dal Napoli con squadre con fatturati minori, per usare la terminologia di Benitez. No, e poi c'è il grande dubbio, noi prima l'abbiamo accennato, cioè, ma per chi tifa il sistema? Per chi tifa? Roma fa sempre tanta fatica a venire avanti. 33esimo, Gervinho, il cross, un tocco di mano di Vrsaljko, per Irrati è calcio di rigore. Qualche dubbio resta. Ma il rigore dimostra di non esserci, perché il regolamento dice che quando tocca una parte del corpo e poi il braccio ed è congruo il movimento a quello che è l'intervento che ha fatto Vrsaljko, il rigore non c'è. Tocco per Florenzi in area di rigore, il cross arriva a Ljajic, 2-2 il pareggio nei secondi finali, doppietta anche per lui, sesta rete stagionale, ma la posizione di partenza di Florenzi è irregolare, millimetrico il fuorigioco, rete da annullare. Ma non è il fatto di avere una partita di Champions League, se era il campionato era la stessa cosa. Non è che possiamo giocare sempre tutta la stagione, ogni tre giorni con gli stessi giocatori. E dopo, per esempio, c'è anche un rischio di mettere sempre gli stessi. Oh, sai cosa ha scritto Peluso questa mattina Rocky su Twitter? Rocky, dichiarazioni di Rocky non ci sono dichiarazioni, vedremo se Errati parlerà. Peluso oggi su Twitter ha scritto: con la Roma non sono fortunato, l'anno scorso mi hanno annullato un gol regolare, era la Coppa Italia, ieri ne hanno regalati due irregolari, è forse colpa del sistema? Ma per chi tifa questo sistema? il sistema è una brutta bestia, una carogna e anche una discreta puttana, tifo un po' per una, un po' per l'altra a seconda delle convenienze. No, quindi... sì, però noi da ieri abbiamo le idee un po' più confuse. Noi venerdì ci eravamo chiariti tutto e era la Juve che comandava, era la Juve, e invece oggi abbiamo le idee un po' più confuse. Aiutateci, 800 24 00 24. Traffico. Io rappresento una parte bella e pulita della storia della Juventus. Io sono buono come la mostarda e questa storia degli aiutini deve finire una volta per tutte. Scusate, chi è? Ah, arbitro Errati di Pistoia. Ma sì che ti ho detto rigore, ma per quegli altri. Tutti convocati. C'è ancora un sorridente Gasperini, e del resto come dagli torto, ripeto, 26 punti, terzo posto in classifica, oggi forse la notizia insieme al terzo posto in classifica del Genoa che celebriamo in maniera adeguata. E lo diciamo subito agli amici da casa che poi ci accusano di pensare soltanto alle grandi. Cioè, però la notizia è il Milan, 7 punti nelle ultime 7 partite. Saluto Stefano Ragno, ciao Stefano. Ciao, ciao Stefano. Possiamo dire che è la notizia, no? Questa mattina sui giornali ho letto Repubblica, Inzaghi pronto al rinnovo per 5 anni. Se l'è guadagnato sul campo, ripeto, 7 punti in 7 partite, 21 nelle prime 14. Seedorf ne aveva fatti 26 l'anno scorso nelle prime 14 sue. Stefano. Diciamo che molte volte i numeri non fanno fare le cose giustamente come bisognerebbe. Normale che secondo me gli allenatori bisogna lasciarli lavorare, in questo caso Inzaghi sta facendo il suo massimo con un gruppo di giocatori che in questo momento possono dare questo. Strano che comunque vedere un Milan rinunciatario, perché il primo tempo, anche grazie poi a come era messo in campo il Genoa, è sembrato però un Milan che attende troppo, e quando si parte da troppo lontano dalla porta avversaria, poi diventa anche molto difficile trovare sempre la via giusta facendo del contropiede, anche perché quest'oggi Onda e Sharawi non sono stati molto attivi, e forse anche per questo il Genoa non è mai riuscito a ripartire, il Milan non è mai riuscito a ripartire. Sì, non capisco, Giovanni fa sempre questo parallelo tra Seedorf e Inzaghi. Inzaghi piace alla società, piace al pubblico, mette d'accordo tutti, e quindi la proprietà lo conferma, può comprare 5, 10, sì, 15 o 20 però anni. I numeri hanno un significato, cioè, nel calcio sono il metodo di giudizio, ma Seedorf non di come stai lavorando, e di conseguenza non aveva una chance. Poi Seedorf è arrivato a giochi a campionato in corso, Inzaghi è partito dall'inizio. Probabilmente la squadra di Seedorf era anche più qualitativa rispetto a quella di Inzaghi. Insomma, è chiaro che il Milan oggi ha fatto schifo. Male oggi il Milan, Stefano, male. Cioè, male anche perché comunque grazie anche all'avversario. Cioè, sì, sì. Genoa è comunque terzo in classifica, meritatamente, perché comunque è sempre molto ben messo in campo. Poi devo dire che questo Perotti mi ha veramente lasciato a bocca aperta, perché molte volte si vanno a spendere dei gran soldi in giro, però questo è far capire anche a tanti addetti ai lavori che basta comunque andare a vedere alcune partite e seguire determinati giocatori che, pur spendendo magari un quinto, un decimo di quello che solitamente si spende, si può trovare anche il giocatore vero. L'Udinese, devo dire che sta insegnando un po' a tutti questo, no? Figuriamoci, anche il Genoa negli ultimi anni ha comunque lavorato sempre bene, perché ha scoperto sempre giocatori di grandissima qualità. Ma conoscendo un po' l'ambiente di Genova, questa è una squadra, è una società che punta davvero a stare lì in alto, o magari arrivato ai suoi 30-35 punti poi Preziosi penserà a monetizzare, penserà alla prossima stagione, all'eventualità di un'Europa League che sarebbe faticosa, magari poco economica, Stefano? Ma secondo me è giusto credersi fino in fondo, anche perché comunque sia, visto che la squadra è questa, quella che sta occupando comunque la terza posizione, non vedo perché non bisogna arrivare fino in fondo. Semmai a fine anno si possono fare i conti, magari un giocatore per i bilanci societari puoi anche venderlo. È normale che poi, se lavori bene, comunque puoi fare cassa, ma andare di nuovo a trovare giocatori che in questo momento magari non stanno facendo bene, però hanno sempre della grande qualità, anche perché Gasperini è uno che fa giocare bene le squadre, perciò quando un giocatore è avvantaggiato con l'idea del gioco, sapendo come si muovono i tuoi compagni, magari prima di ricevere la palla, questo penso che chi ha qualità poi tecniche le può sfruttare al meglio. Nel Milan invece diamo per disperso Torres, oggi è partito in panchina, ha finito in panchina, prima di lui sono entrati Pazzini e Niang. Stefano, ho l'impressione che al di là dei voli di Berlusconi le gerarchie si stiano cristallizzando in attacco nel Milan. Sì, dispiace, perché l'ho detto io a Torres, pur vedendo che sta facendo comunque fatica, ma come in tante partite l'hanno fatto un po' tutte, perché devo dire anche che non, la punta centrale nelle ultime partite non è mai stata messa in condizione di giocare grandi palloni e soprattutto palloni giocabili, e proprio per questo forse ha optato per una finta punta, che poi Menezza è uno che gira su tutto il fronte dell'attacco, però Menezza è un giocatore che può anche giocare sull'esterno, è uno che secondo me può fare bene anche sull'esterno, perché in questo momento manca proprio lì, perché mancano giocatori che saltano nell'uno contro l'uno l'uomo e ti mettono in condizione di Essere Shaarawy, però dovrebbe essere Shaarawy, che però deve decidersi a dare un contributo anche in termini di gol a Inzaghi, che ha fatto delle scelte molto secche, no? Molto drastiche. Pazzini no, Torres no, gioco con Menezza, gioco con Shaarawy. Se però Shaarawy non segna, è un problema. Eh sì, è un problema, anche perché poi hai dovuto spostare Bonaventura, che secondo me è uno dei giocatori più forti Il Milan, e si sta adattando e sta facendo molto bene da mezzala, però secondo me spostato 10 metri più avanti è quello che ha sempre tirato più di tutti in porta quando è stato fatto giocare lì, è uno che vede grande la porta, è uno che ti salta l'uomo, perciò devo dire che è un po' snaturato Bonaventura, anche se è un grandissimo giocatore, può giocare ovunque, però togliendolo dalla posizione secondo me fondamentale, dove in questo momento secondo me, tolto Menez che tira in porta, tutti gli altri devo dire che non hanno fatto molte conclusioni nelle ultime gare. Oggi nel primo tempo è stato Menez contro tutti, e gli altri 10 erano molto lontani dalla porta. Se mi passate la battuta, Torres, finto attaccante anche lui, 8 gol in tutto il 2014, 1 in 10 partite con la maglia del Milan. Ripeto, oggi prima di lui sono entrati Pazzini e anche Niang nell'assalto finale. Ciao Stefano. Ciao Stefano, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao, buona serata. 800 24 00 24. Guarda, Stefano da Milano, Antonio da Isernia, Marco da Roma, vi aspetto, vi aspetto di Turone. Noi siamo qui fino alle 19, giusto. Vi aspetto tutti, non lo so. Stefano, eccomi. Eccoci, prego. Buonasera, da uno Stefano all'altro. Sì. Dici. Dunque, io sono milanista e volevo fare una considerazione, però vorrei che faceste voi un bilancio, perché magari io facendo altro nella vita non sono capace di farlo. Vorrei sapere da voi, secondo voi, quanto il Milan ha perso in questi anni non facendo o uscendo spesso ai primi turni dalla Champions League dopo aver venduto Ibrahimovic e Thiago Motta. Ha perso in termini economici? In termini economici, dicendo. Sì, perché a questo punto io non capisco chi ci sia dietro, o se ci sono delle dinamiche per le quali probabilmente vogliono vendere il Milan in futuro agli Emirati Arabi, non lo so, magari devono far scendere il prezzo, non lo so, ma mi chiedo perché indebolirla quando hai uno degli attaccanti più forti del mondo, un centrale che è il forte del mondo. Sì, perché quell'attaccante lì prendeva 20 milioni lordi a stagione, dimensione che il Milan in questo momento, ma non solo il Milan, perché il discorso vale anche per l'Inter. Anche Max S ne prende 4,5 volendo. Non potrebbe, ma Max S è l'ultimo rimasto, è l'ultimo dei moicani. Al 30 giugno non ci sarà più. Torres è certamente un investimento sbagliato. Poi il Milan ha iniziato a fare prima quello che l'Inter sta facendo in questo momento, secondo me ha fatto bene, e lo dimostra il fatto che settimana prossima gli ispettori dell'UEFA prenderanno possesso della sede dell'Inter e non di quella del Milan, quindi evidentemente Galliani e la proprietà ci hanno visto bene, però è evidente che questo è un Milan profondamente diverso da quello. Il conto economico secondo me non si può fare, certo che ha perso tanto, una stagione in Champions vale 40-50 milioni di euro, però ripeto, il Milan aveva bisogno di tornare a una dimensione che fosse quella giusta anche per il campionato italiano. Antonio da Isernia. Antonio. Sì, buonasera. Senapo, io volevo esprimere tutta la mia amarezza. A me Inzaghi non mi ha mai convinto, diciamo che Inzaghi sta in mezzo al Milan di Allegri e al Milan di Seedorf, perché Inzaghi è venuto al Milan solo ed esclusivamente perché ha portato entusiasmo, perché i fatti mi stanno dando ragione. Io mi auguro che il Milan non si qualifichi anche quest'anno, che Inzaghi a fine stagione andrà via e che possa venire un grandissimo allenatore. Sì, ma in realtà si parla di rinnovarlo, il contratto di Inzaghi. Ripeto, oggi l'ha scritto Repubblica, questa mattina Berlusconi convinto penserebbe a un futuro 5 anni di contratto per Inzaghi, Inzaghi alla Ferguson. Ma fa benissimo, ma Inzaghi è una scelta che mette d'accordo tutti, al di là di qualche tifoso come Antonio, l'allenatore che negli ultimi anni è riuscito a mettere d'accordo presidente, tifoseria, opinione pubblica, giocatori. Il problema è che nemmeno Mago Merlino con questa squadra riuscirebbe a fare di più, perché il Milan è una squadra scarsa, leggete la formazione, cioè poi parametriamoci. Il Milan su non quale è una squadra, però squadra. Carlo, molto diversa da quella della seconda parte della scorsa stagione, che era pure scarsa, quella in mano a Seedorf, però a Seedorf non ci credeva nessuno, e questo è importante. Ha scritto un amico, Lorenzo, Seedorf non piaceva perché aveva detto la verità, non piaceva neanche ai giocatori Seedorf, e cioè che la rosa la vale questa classifica, non di più. Seedorf non piaceva a nessuno, non piaceva ai giocatori, non piaceva alla proprietà, o almeno a buona parte della proprietà, non piaceva nemmeno a tutti i tifosi, e dunque è stato fatto questo cambio. Inzaghi mette d'accordo tutti, sta facendo più o meno il suo, quello che la classifica rispecchia grosso modo il valore del Milan, e dunque se la proprietà decide di confermarlo perché è convinta del suo lavoro, fa bene. Pubblicità. Genta, ma Dio me ne guardi, Capuano, ma Dio se ne liberi, Pardo, per carità di Dio, ma sta gente si vergogni, da sindaco di Venezia li ho ascoltati una volta e poi basta, madama la marchesa, liberarcene è illusorio, ma non è una questione di catastrofismo, di disfattismo, è evidente, il grembo che produce i convocati è sempre fecondo. Convocati. Per atteggiamento durante gli allenamenti, sai, in campo poi si trova in delle circostanze. Nelle prime due palle penso che probabilmente l'inserimento di Montolivo sulla prima non l'abbia neanche visto, la seconda era davanti a Perin, forse la terza che deve mettere di prima, perché avevamo due uomini da soli davanti alla porta e probabilmente avremmo fatto il gol dell'1-1, però forse è questa, ecco, poi dalla panchina. No, infatti i nostri uomini erano anche abbastanza marcati, insomma dalla panchina pensavo fossero più liberi, ecco, perché poi rivedere la partita insomma ti dà un altro quadro a volte. Ma poi dispiace, chiedere... dispiace, però insomma non mi piace insomma dare colpe o colpevoli. Noi dobbiamo cercare di giocare, di... Chiaro che oggi sarebbe stato un salto di qualità anche per la nostra classifica importante. Però questo è un campo difficile, non a caso c'è, cioè, Genova è terzo, ha battuto la Juve. C'è un po' di rammarico per non essere andati in vantaggio, che forse l'avremmo anche meritato nei primi 20 minuti. Però poi, insomma, poi, complimenti, scusa, a loro. Massimo, si può chiedere a Inzaghi? Questo Inzaghi, delusissimo, 8-0-0-24-0-0-24, ha detto anche: abbiamo pagato l'ennesima ingenuità su calcio, sì, d'angolo. Poi parliamo anche dell'errore di Bonera sulla marcatura di Antonelli, però ripeto, secondo me fare il processo a Bonera significa guardare il dito e dimenticarsi, no, ma poi Inzaghi ha detto che Bonera e Dessien sono giocatori di livello, no? L'ha detto lui, ha detto una cosa del genere, no? Sono un patrimonio del Milan. Cosa sono? Sì, sono due giocatori, Dessien oggi non pervenuto, nel senso che non ha giocato. No, lo so, però lui aveva detto sotto critica dopo il derby, mi pare, Bonera e Dessien sono asset importanti per il Milan. Non ricordo la parola, però insomma, forse sta a testimoniare che la dimensione del Milan è data da questi giocatori. Ma al di là delle forzature, Inzaghi ha detto: abbiamo giocato un eccellente primo tempo, potevamo fare gol, se avessimo fatto gol la partita sarebbe cambiata, e se mio nonno aveva le ruote aveva anche carriola. Detto ieri, questo Milan non si batte. Io è questo che contesto, una squadra che prima di oggi aveva fatto 7 punti nelle ultime 6 partite, secondo me non giustifica questo tipo di ottimismo. Oggi è arrivata la conferma, 1-0 a Marassi contro il Genoa. Marco da Roma, Marco. Pronto, mi sentite? Eccoci. Allora, volevate sentire parlare di Napoli, quindi... Siamo qui. Eccoci. Volevo semplicemente avere anche una vostra opinione sull'atteggiamento del mister Benitez e della società, perché Benitez si è presentato come uomo, allenatore, nonché anche direttore sportivo, uomo delle scelte, uomo di mercato, cosa che non gli era stata consentita di fare all'Inter, in cui da professionista ha detto: se le scelte le approvo io, la squadra vince perché io con il mio modulo vinco. Ha detto: si presenta lui con una quantità di acquisti inguardabili, perché inguardabili dire poco, perché i vari Michiu, David Lopez, ci siamo ritrovati sul groppone Gargano, questi, la difesa che ormai è assolutamente inesistente, cioè una difesa che in Serie B non giocherebbe. Ci troviamo, sì, complessivamente lui, il Milan, il Napoli, scusa, è più debole dell'anno scorso, credo che su questo ci siano pochi dubbi. Con lui, che da grande professionista non ha il coraggio con la società di far capire il progetto, che cosa prevede. Il progetto prevede che noi dobbiamo lottare per la media classifica. Lo dicessero, ma non continuassero a dipingere il Napoli come squadra da Champions League, perché abbiamo dei giocatori validi, fortissimi davanti. Il resto della squadra è una squadra da Serie B. Sì, senza esagerare, Marco, perché io continuo a ritenere che questo Napoli, comunque per qualità, soprattutto offensive, cioè un giocatore come Higuaín ce l'ha solo la Juventus con Tevez, per intenderci, davanti. Beh, questo Napoli ha comunque possibilità superiori alle altre concorrenti per il terzo posto. Martes Caleon, Amsic, Gulam. Koulibaly, che comunque è stato un eccellente acquisto. mi sembra che dire che queste siano, sono giocatori della Serie B per sì. me è un po' forzato. Poi è se, la ragione se per cui perdi sta 14 punti contro squadre della seconda parte della classifica nelle prime 14 giornate, evidentemente qualche problema c'è, come qualche problema c'è a Roma. Roberto Renga, ciao Roberto. Buona domenica a tutti. C'è più di un qualche problema a Roma, poi parliamo di errati, però c'è più di qualche problema a Roma. Diciamo che Roma è tutto un grandissimo problema capitale in questo momento, per cui il calcio fa parte, è uno dei tanti problemi, devo dire è quello meno grave ovviamente rispetto a tutti gli altri che ci angosciano. Però c'è anche il problema del calcio, che oggi non riguarda la Lazio, che ha vinto, anche se forse in maniera un po' casuale, perché il primo gol di Parma aveva fatto un gol validissimo e anche molto bello, però in questo momento riguarda semmai la squadra più importante, quella più forte in questo periodo, cioè la Roma. Sì, Parma tra l'altro che oggi ha ricevuto la bella notizia della cessione del club, poi cercheremo di capire a chi, perché oggi contorni di questa accordata russo-cipriota nuova, un advisor italiano ancora non sono chiari, però vi faccio sentire un secondo Donadoni che a proposito di Parma sta iniziando il suo intervento a Sky. È stato un ottimo primo tempo, si è riusciti anche a fare gol, invece è stato valutato in fuori gioco, peccato, però si è riusciti poi a rifarlo con un ottimo gol di Palladino, e direi che la squadra si stava esprimendo bene, ha fatto veramente un ottimo primo tempo, poi abbiamo subito quel gol allo scadere e lì devo dire che in tutta sincerità e onestà l'arbitro ha ammesso l'errore di essere andato quei 15-20 secondi oltre e non capisco il perché, però insomma ci è costato, fatalmente ci è costato il gol. Entrare nello spogliatoio sul 1-0 sarebbe stato chiaramente differente, però insomma siamo ripartiti al secondo tempo con la convinzione di fare bene ancora, e invece un'ingenuità ci è costata cara, abbiamo regalato un po' con troppa ingenuità il gol alla Lazio. E quindi siamo qua ancora a piangerci un po' addosso, però dobbiamo avere lo spirito sì. combattivo di queste ultime due gare. Piange soprattutto la classifica per Donadoni, che ha ragione, Guida e i suoi assistenti non ne hanno azzeccata una oggi in un fine settimana pesantemente negativo per i nostri arbitri. Carissimo Roberto Renga, io e Carlo Genta siamo qui che ci interroghiamo su quale sia la squadra del cuore del palazzo, perché avevamo le idee chiarissime fino a ieri, poi da ieri sono tornate confuse. Prima c'era Rocchi, adesso è arrivato un altro e quindi diciamo che le cose sono state non dico sistemate ma rimesse in carreggiata. Piuttosto credo che la Roma, no, però mi deve rispondere per chi ti fa il sistema. Perché ti fa, scusami, il sistema? No, secondo me non ti fa per nessuno in questo momento. Se dovesse scegliere, sceglierebbe probabilmente non la Juventus, perché viene da 3 scudetti consecutivi e un quarto potrebbe annoiare probabilmente. Quindi magari potrebbe sperare uno scudetto alla Roma o al Napoli, ma il Napoli si sta facendo fuori da solo. E quindi quel gran bastardo del sistema ti fa Roma. Ma a occhio potrebbe essere così, però sinceramente io penso che in questo momento sia la Roma che la Juventus non abbiano alcun potere all'interno del palazzo. Sono l'opposizione di tutto, come dimostra anche la vicenda di Marotta. Sì, ma infatti non contano assolutamente niente, per cui dovremmo pensare a un palazzo che, pur non avendoci nessuno che conta, è un palazzo che ha un'anima e anche un'intelligenza sua, e dice: ma sai, a noi ti dei conti, adesso comprerebbe uno scudetto a Roma. Anche se io penso che la partita di ieri sera e l'altra, quella della Fiorentina e della Juventus a Firenze, abbiano fatto capire tutt'altro, perché in questo momento per esempio la Juventus, se ci fate caso, abbiamo giocato in Italia 14 partite, la Juventus ne ha fatte 6 in casa e 8 fuori, la Roma ne ha fatte 8 in casa e 6 fuori. Questo lascia pensare, anche se i risultati possono essere comunque positivi sia a casa che fuori, che in realtà i punti di distacco possono essere più di 3. Sì, anche se poi esiste la tabella di Luca Valdiserri, ne abbiamo parlato settimana scorsa, per cui rispetto alle prime 14 dell'anno scorso la Roma ha avuto un calendario molto più complicato quest'anno e quindi valgono più i punti di quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso. C'è la Champions League, perché il calendario si può tirare un po' come si vuole. Ma il calendario te lo giochi come vuoi, piuttosto la sensazione che il Manchester City e l'impegno di Champions League veramente si siano infilati nel cervello di una Roma che contro l'Inter avevo visto molto meglio rispetto alle uscite precedenti. Sì, è vero, però anche nella testa della Juventus, perché se ci fate caso Allegri e García hanno fatto più o meno un'operazione simile, no? Dice, cercando di fare questo turnover selvaggio. Devo dire che quello di García non aveva un senso ieri sera, soprattutto la presenza di Strootman ha fatto del male a Strootman e alla squadra. Allegri un po' meno l'ha fatto, però l'hanno fatto entrambi lasciando intendere alle squadre, alle loro squadre, che la partita più importante era quella di Champions. Adesso bisognerà vedere comunque come reagiranno alla terza partita, perché i giocatori non sono stanchi alla prima partita, sono stanchi alla terza, e quando il prossimo turno ci sarà le prime due, Juventus e Roma, che giocheranno contro le due genovesi, che sono tra le squadre più in forma del campionato, sì, o forse sono addirittura le più in forma, sì. Adesso sarà molto interessante vedere. Però l'altro dato sicuro è che la Roma quest'anno ha un rendimento in casa e un rendimento fuori, e dovendo giocare ancora adesso due più in fuori rispetto alla Juventus, a occhio ci lascia pensare che il fossato possa aumentare. Sì, è un finale di girone d'andata non semplicissimo quello della Roma, va a Genova, poi con il Genoa, poi ospita il Milan, poi all'Epifania Udinese-Roma, poi il derby e poi Palermo-Roma, e poi si tireranno i conti, e a quel punto a metà anno sarà tutto più chiaro. Ieri sei potenziali titolari tenuti da Garcia in panchina pensando al Manchester, evidentemente un turnover esagerato. In 30 secondi, Roberto, mi piace sapere da te se esiste un problema portiere alla Roma. Esiste, sì. Lui non ha fatto benissimo nemmeno l'anno scorso, però quest'anno io ho sempre la paura, io come tutti quelli che stanno nel calcio, che un signore arrivato a una certa età si possa addormentare portiere e svegliare impiegato. Questa è la prima cosa. La seconda, se mi permetti, volevo dire questo, che io non mi interesso mai, come soprattutto i media italiani, della vita privata dei giocatori, ma in questo momento, se io fossi un dirigente della Roma, mi interesserei della vita privata dei miei giocatori. C'è qualche spiffero di troppo. C'è qualche spiffero di troppo, c'è qualcosa che non torna. Troppe chiacchiere, soprattutto poi a Roma, è peccato mortale. Grazie Roberto. Ciao Roberto, grazie. Grazie a voi, ciao. Buon lavoro. Grazie Roberto Renga. Grande classico, il ponentino. Assolutamente. 800 24 00 24, c'è chi chiede se gli spieghiamo con la moviola in campo cosa sarebbe cambiato per la Juve e per la Roma. Con la moviola in campo nulla, ma perché la moviola in campo non è un tema di cui si dibatte della tecnologia ancora. Per il gol non gol sarebbe cambiato qualcosa per il Bari, per chi l'ha visto ieri, Bari-Carpi 0-1, gol chiamiamolo fantasma, ma era dentro di più di un metro, altro che Muntari. Pareggio del Bari, o di che cosa? Tecnologia costa. Parliamo troppo, di tecnologia. Non si può fare, costa traffico. Sono Lapo Elkan, volevo fare una smentita. Ieri è uscita la notizia di un video col quale sarei stato ricattato causa droga ed autoerotismo. Circostanze assolutamente false. Niente droga. Datemi quella farfalla. Che bella farfalla, piena di energia e colorata. Datemi quella farfalla. Tutti convocati. Giancarlo da Chieti. Giancarlo. Sì, eccoci. Sì, buonasera. Io no, sono appena passato tra Lanciano e Chieti per la grandinata, quindi posso confermare il traffico. Ah, bene. Radio Verità. Prego. Radio Verità. Sì, no, volevo intervenire in relazione al palazzo. Guardi, detto che sono juventino, ma non riesco a capire perché questo calcio deve trovare per forza la possibilità di dire che c'è cattiva fede o che ci sono le trame. Ma non è possibile pensare che l'arbitro di ieri sera, che pure ha regalato un punto alla Roma, abbia commesso due errori e che non sia stato avvisato da qualcuno. Che ne so, lo stesso arbitro del domenica scorsa e venerdì scorso non ha dato il rigore alla Juve abbia semplicemente sbagliato. Ma noi seguiamo l'onda, Giancarlo, noi siamo molto interessati. Lo spiega lei a dove si sposta il palazzo. Lo spiega lei a quelle centinaia che ci hanno telefonato per la moviola postuma del 1982, il doppio confronto tra Fiorentina e Juventus, Fiorentina a Cagliari, Juventus a Catanzaro. Abbiamo rispolverato le origini di quella rivalità e hanno chiamato in centinaia, ci hanno sommerso di rivisitazioni, diciamo così, non di insulti, per carità. Di sentire Garcia, o anche quando capiterà, se dovesse capitare a lei, che dicesse: peccato, oggi abbiamo perso un punto o due, l'arbitro ha fatto un errore, non è che c'è stato qualcuno, cioè è la cattiva fede a prescindere che mi preoccupa, perché poi dopo siamo abituati all'idea che, ma perché siamo italiani, perché se abbiamo bisogno di un attacco ci mandano fra sette mesi, ma se conosci il primario, se arrivi fra sette giorni, certo. Allora questo è il guaio. Che mi piacerebbe non sentire più nel calcio, se fosse possibile. Grazie Giancarlo, io leggo se posso. È una questione di mentalità. L'editoriale di questa mattina su Tutto Sport, i cattivi pensieri di Gianni De Pace. Le prime 10 righe, i fatti. La Roma salva la pelle con il Sassuolo grazie agli aiutini del signor Irrati di Pistoia. Il commento, scrive Gianni De Pace, per noi ciò non significa campionato falsato. Gli errori degli arbitri fanno parte di questo sport e solo chi vuol pensare male a tutti i costi si masturba con i cattivi pensieri. E quindi viva il campionato che ripartirà il prossimo weekend con l'avvincente duello Juve-Roma e forse, speriamo, con qualche minchiata in meno pronunciata nei pre e nei post partita. Tutto Sport questa mattina. Andrea da Firenze. Andrea. Sì. Prego. Buonasera a tutti. A proposito di aiutini, il Mani di Pizarro al 94esimo, o sì, no? Come no? Anche quello, certo, come no? Anche quello di Chiellini e la trattenuta su Gomez. Era un pareggio, guardi, anche se dove c'era due rigori, se proprio vogliamo parlare di questo. Ha ragione, Andrea, hai ragione. Ragione. Io ho disdetto Sky, cioè vi stimo tantissimo i giornalisti, però vi rendete conto che state parlando che ha vinto il Juventus a Firenze? Ma come cavolo ha giocato bene la Fiorentina? Che poi non fosse incisiva davanti, siamo tutti d'accordo, per cui non abbiamo tirato in porta. Bella partita quella della Fiorentina, hai perfettamente ragione. Mi parli 10 minuti di come cavolo ha giocato bene la Fiorentina? 10 minuti no, però. Per dire che siccome parlate a quarti d'ora, a mezz'ora di Juve, Milan, Inter, io lo capisco i bacini di utenza, lo capisco la presa sul mercato, ma basta! Cioè, la gente non ne può più di questa roba. 10 minuti no, Andrea, però ti dico una cosa, Fiorentina che non ha un attaccante in questo momento, prego. Da mancare l'attaccante della Fiorentina, volevo parlare proprio di questo. Però se tu permetti, guarda, ti faccio una battuta perché mi voglio calmare. La battuta è questa: la migliore gelateria, che io sono un appassionato di gelato, mi offre i miei gusti, cioè quelli che io gradisco di più. Mi dice: guarda, te li do gratuitamente, sono tre gusti. Dice: guarda, ti prendi quei tre gusti e te li scegli per tutta la vita, sono gratuiti. Bene, dopo un mese li mando a quel paese, perché di bere sempre, di mangiare sempre lo stesso gusto gelato, non ne posso più. Allora, il prodotto calcio, parlo da imprenditore, e sono anche editore, tra virgolette, un po' vostro, perché sono in Confindustria Firenze, quindi so di quello che parlo. Però il punto è: ma porca miseria, ma il prodotto che propone sempre le stesse robe, ma non si può più buttare giù. Sai, Andrea, però poi dopo si fanno i numeri, e i numeri si fanno con quelli. A queste squadre, ma i numeri del mercato, appunto, dovrete essere obbligati, ma ditelo chiaro. Ragazzi, scusateci tanto, dobbiamo parlare di Juve, di Milan, di Inter, di Roma. Ora mi stava scappando la parolaccia. Ma chi se ascoltarvi? Non vi ascoltiamo più noi, il resto d'Italia non vi ascoltiamo. Sì, però c'è, però Andrea, adesso eccezionali. Il discorso è questo. Va benissimo, però siamo qui apposta. Quello che deve passare è questo: avete uno strumento, un numero verde, è il telefono. È inutile dire che chiamano dalle altre parti. Ma non c'è problema. Il signore prima che ha chiamato da che era Juventino, per sentire parlare scorrettezze. Al signore di Dovera, non so, che io rispetto assolutamente, dico: sa che cosa non si deve parlare del calcio italiano, anzi dello sport italiano? perché ci ha sputtanato di fronte al mondo. Di Juventus non ne parliamo più, perché per prevaricazione, arroganza e corruzione. Ecco, però vedi Andrea, adesso tu dici questa cosa e noi dalle 18 alle 19 saremo sommersi di juventini, di telefonate che dicono, di juventini che dicono esattamente il contrario. Basta darci dei ladri. Posso dire una cosa sulla Fiorentina? Dillo. Che se avesse un attaccante in questo momento potrebbe essere in testa quel trenino per il terzo posto, perché ha ragione, ha giocato una partita molto bella venerdì sera con la Juventus, però una partita davanti, Andrea, senza sbocchi. Questo è il grande limite della Fiorentina, non da quest'anno, o no? Della mia squadra, ma ci va bene tutto, io sono per lo sport, io voglio solo dire occhio, perché calcio va bene, non è sport, è business, abbiamo capito tutti, d'accordo, perfetto, ma sto 5% che gli è rimasto di sport a questa disciplina, chiamiamola così, ma tentiamo di farla respirare, cerchiamo di coltivarla, va e bene. Allora coltivare, come si fa a coltivarla? Non parliamo delle solite squadre, basta ragazzi, rendetevi conto voi per primi, poi lo capisco che rispondete a un bacino, lo capisco. No, rispondiamo anche alla prossima telefonata, quella dopo di te, Marco da Verona, che mi dice Giorgio De Luca, autore di questa puntata di Fiorentina, no? che vuol parlare del Milan, per cui lo prendiamo lo stesso. Andrea, dai, grazie, Marco da Verona. Pronto, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Siamo qui. Sì, sono un po' in imbarazzo adesso a parlare del Milan dopo la telefonata dell'altro radioascoltatore, ma mi tocca perché sono milanista. Io volevo semplicemente fare una considerazione. Si parla molto di Inzaghi o di squadra non a livello. Io credo che il problema del Milan sia fondamentalmente un altro, cioè la dirigenza, che non ha una strategia nell'impostare nella campagna acquisti, né poi nel decidere cosa vuole fare del Milan. E di conseguenza tutto questo si tramanda in tutto il resto della squadra, a partire dall'allenatore e poi sui giocatori. Sì, a me sembra che siano chiare le idee, cioè il Milan oggi è questo, ha una politica che è quella dei parametri zero. È una politica sbagliata. No, perché Venezia è un parametro zero. Giusto o sbagliato non è vero che non c'è una strategia. È un parametro zero, cioè non è vero, c'è una strategia. C'è una strategia ed è molto precisa, molto chiara. Non ci sono soldi da investire. Può non piacere, possiamo considerarla sbagliata, i tifosi la considereranno sbagliata perché non hanno una squadra all'altezza, ma la strategia esiste come? E sarebbe? Sarebbe quella che è praticata, parametri zero, giocatori che sono a fine contratto, che sono svincolati, e una politica di bassi costi in attesa di liberarsi degli ingaggi pesanti che sono stati comunque inchiostrati. Noi giustamente diciamo che Torres è stato un errore, però in questa campagna c'è anche stato Menez, c'è stato Bonaventura preso per poco, c'è Onda preso a gennaio che è stato preso per zero, cioè la valutazione poi va fatta su tutti i movimenti. Va anche detto che probabilmente qualche entusiasmo su questa stagione, qualche entusiasmo su Inzaghi è forse eccessivo, noi questo ci permettiamo di dire. Continueremo però a farlo. 800 24 00 24, chiamateci, qualunque squadra tifate, siamo qui fino alle 19, arriva anche Pierluigi Pardo dopo il GR. Quote e pronostici. La domenica di Serie A si chiude con il posticipo del Meazza tra Inter e Udinese. Si gioca alle 20.45 a San Siro, Stramaccioni contro il suo recente passato. Vediamo dunque le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dell'Inter che è favorita, è quotata 1.50, l'X è a 3.90, il 2 invece, con il successo friulano, è quotato 7, gol quotato 1.92, no gol quotato 1.78. Liga in campo con due gare in serata alle 19, nel sottomarino giallo c'è Villarreal Sociedad. L'1, la vittoria dei gialli, è quotata 1,65, l'X è a 3,80, il 2 invece è quotato 5. Alle 21, interessante il match tra Granada e Valencia. L'1, la vittoria del Granada, è quotata 3,70, l'X è a 3,40, il 2 invece, con il successo valenciano, è quotato 2. Chiudiamo con il posticipo della Ligue 1 tra Marsiglia e Metz, si gioca al Velodrome alle ore 21. L'1, il successo della Marsiglia, è quotato 1,42, l'X è a 4,50, il 2 invece è quotato 7,50. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Sbidiguda, supercazzola prematurata, eh? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle! E le son là, guardi, a destra, là. il fatturato. La struttura della società è la struttura della società. E sappiamo che sono 4-5 società che sono più forti. Questo lungo confronto nello spogliatoio, insomma, siete stati più di mezz'ora con la squadra, col presidente De Laurentiis. Non c'era il presidente. Il presidente era là, ho parlato con lui, dopo ho parlato con il mio staff, dopo con i giocatori. Questo era per dire, è un post partita diverso rispetto al solito? No. Noi in questo momento, secondo me, siamo pronti a qualsiasi battaglia e penso che sarà difficile anche per loro, insomma, trovarsi un Milan così di fronte. Forse ci è mancato un po' di cinismo davanti alla porta per passare in vantaggi e per metterci in una posizione classifica molto vantaggiosa. Questo è il calcio, probabilmente questa squadra ha bisogno anche certe volte di queste partite per migliorare ancora di più, ne faremo anche a meno. Era di rigore, Gervinho prova a passare con le fette in area, Gervinho ancora con il sinistro, due volte Gervinho calcia di rigore, tocco di mano di Bersanico che viene anche ammonito. No, ma non è il fatto di avere una partita di Champions League, se era il campionato era la stessa cosa, non è che possiamo giocare sempre tutta la stagione ogni tre giorni con gli stessi giocatori. E dopo, per esempio, c'è anche un rischio di mettere sempre gli stessi. Questo è il riassunto sonoro di questo sabato e di questa domenica. Benitez, Inzaghi e Garcia, il nostro podio di quelli che si erano un po' lasciati andare, perché anche Garcia aveva detto questo è il momento, poi insomma c'era quel pareggino tra Fiorentina e Juventus, poi abbiamo sentito Benitez e il suo fatturato, poi Inzaghi, ripeto, questo Milan non si batte. Chi ti è piaciuto di più? Di chi? Di questi tre. No, chi mi è piaciuto di meno, se posso dire, Benitez per distacco mi è piaciuto di meno, cioè non esiste tutte le volte tirare in ballo questa storia dei fatturati, io dico solo che il Cagliari ha un fatturato inferiore rispetto al Napoli, ha fatto 3-3 con al netto delle follie di Zeman, che l'Empoli ha un fatturato che non so quanto sia inferiore a quello del Napoli, oggi ha pareggiato al San Paolo, dico che l'estratto conto non gioca, non scende in campo e dunque a un certo punto il Napoli secondo me ha nettamente il terzo miglior organico del nostro calcio. Se non arriva terzo, il signor Benitez ha fallito come ha già fallito la Champions League. Sì, tra l'altro al netto della spending review che da qualche anno Galliani sta facendo, risulta che il Milan abbia un fatturato certamente superiore a quello di Samp, Lazio, Napoli e Genoa, sì, che in questo momento la precedono, forse anche dell'Inter, anzi certamente anche dell'Inter, che do un'occhiata alla classifica perché questa sera 20:45 c'è Inter-Udinese, dovesse vincere poi alla fine si ritroverebbe lì attaccato a tutte Massimo le altre presunte pretendenti del terzo posto che porta in Champions League. 800 24 00 24, Pierluigi Pardo è al parcheggio. Le ultime segnalazioni lo danno al parcheggio, quindi sta arrivando molto bene. Stasera commenterà proprio la partita dell'Inter con l'Udinese. Praticamente la prima di Mancini, tolto il derby a San Siro, no? Il derby, quella partita molto, molto particolare. Poi c'è stato il Nipro e c'è stata la trasferta a Roma e questa sera la prima volta che Mancini, sì, c'è stato in casa, un, no? Punto in due partite minimo sindacale, posso essere cattivo, li faceva anche Mazzarri, un punto in due partite tra Mazzarri. Milan e Roma. Parliamo però con Alessandro da Milano, poi c'è Andrea da Genova. Alessandro, eccoci. Pronto? Prego. Dunque, io volevo parlare un istante del Torino. Siamo di qui. Nessuno parla, parlo io che sono un tifoso. Bravo. Del Torino andantan. Vorrei capire una cosa, che cavolo lo ha preso a fare Cairo, il Torino, per depauperarlo fino all'estremo, vendendo tutto, sapendo che oltretutto stava in Europa League e quindi poteva anche far qualcosa di meglio di quanto non stia facendo. Ma chi l'ha portato in Europa League? Sì, l'ha portato Cairo dopo, successivamente, anziché proseguire, visto che nel passato il Torino ha trascorso delle fasi che a dir poco pietose, una volta che è arrivato Cairo, il nuovo Berlusconi, perché il Cairo, Berlusconi così, no, è ribattezzato, proseguire su una certa strada, non ha fatto altro che svendere tutti i migliori, da Ogbon, da Cerci, ma ecco, sì, questo però Alessandro l'ha venduto. Però Alessandro, io do un'occhiata alla classifica, il Toro è lì, in questo momento sarebbe virtualmente salvo, ma non è questo che conta, siamo a metà dicembre. Mi viene in mente, è vero che coi se e coi ma non si fanno classifiche, ma se avesse segnato i 3 rigori che ha sbagliato in questo campionato, avrebbe punto più punto meno gli stessi punti della Fiorentina, quindi vuol dire che forse i conti di Cairo non erano così sballati, no, sulla qualità di questa rosa. Andrea vale da Genova, questa classifica. Sì, il Torino in questo momento vale, ma questa, cioè, classifica. È la sua dimensione. Forse qualcosa in più, ma ripeto, di più, ma è la sua dimensione. Poi i conti li facciamo a fine stagione. Andrea da Genova, Andrea. Pronto, buonasera. Eccoci. Senti, io volevo un attimino fare un po' due citazioni sulla partita di oggi. Tutto che quale partita? Partita del Genoa col Milan. Che il Milan non ha giocato una partitaccia, diciamo, che, anche se io sono tifoso genuano. Sì, però Andrea, io c'era quel dato lì, il gol di Antonelli, 31esimo minuto del primo tempo, è arrivato al 9° calcio d'angolo per il Genoa. Sì, però le sue occasioni il Milan le ha avute, non ha giocato una partitaccia. Io ho visto squadre venire veramente a giocare molto peggio, ecco, voglio dire, la squadra c'era, ecco, non è che la squadra non c'era, le sue occasioni se le trovate, ecco, non è inquadrata bene, i giocatori non ci sono, diciamo, quelli di classe non ci sono, però la squadra, insomma, non ha giocato malissimo. E poi volevo chiederti una cosa, se hai notizie di questo giocatore del Genoa, Perotti, perché qua tu a Genova ne parlano, ma chi è, da dove viene, che cosa ha fatto, da dove ha giocato? Perotti era un meraviglioso talento che ha giocato bene nel Siviglia, poi è tornato in Argentina, lui è argentino con passaporto anche italiano, credo, febbraio del Siviglia, 2014, no? si è infortunato anche in maniera grave, e Preziosi è stato bravissimo, in questo il Genoa è società maestra, perché aveva fatto un'operazione simile anche con Thiago Motta, cioè giocatore reduce da lungo infortunio, dal valore deprezzato, preso, e non sempre queste operazioni vanno bene. Se però rilanci un giocatore, come nel caso di Thiago Motta, Andrea, come nel caso di Perotti, poi ti trovi dei piccoli gioielli. Ha scritto un amico, scrivo da Malassi, gira voce che per colpa di Perotti abbiano arrestato Bonera fuori dallo stadio per vagabondaggio. non male. Questo è Marco. Ma sentivamo prima in telecronaca che questo Perotti è un talento che sbocciato mai completamente, ha girovagato un po' qua e là, e poi il Genoa quest'anno l'ha preso, per 150.000 euro. Sì, è un assegno circolare, è il prossimo assegno circolare di Preziosi. Traffico, è arrivato Pierluigi, traffico. E adesso si continuerà a parlare anche a Radio 24 di Fiorentina Juventus come di una tragedia greca grottesca, dicendo delle panzane incredibili, inenarrabili, con frasi ingiuriose. Resto sempre del parere che il mio corniciaio è la persona più intelligente che ho conosciuto in vita mia. E dai! Tutti convocati. È arrivato, ce l'abbiamo qui. Ciao Pier. Eccoci, come va? Bene, ci stiamo interrogando sul podio. Sì, mi sentivo. Sul podio della settimana, tra Inzaghi, Benitez, Garcia. Poi abbiamo chiesto anche ai nostri amici per chi ti fa il sistema. Allora te lo chiediamo così, perché noi abbiamo le idee confuse, no? Tu sai che venerdì abbiamo affrontato questo esperimento comunicativo di fare la moviola 30 anni dopo. Avevamo le idee chiare. Poi arriviamo a ieri sera, ore 19:50, ci si è di nuovo confuso tutto dopo Roma Sassuolo. Ma no, ma non... Ha ragione non Roberto Renga, di episodio. No? Io guarda, che ha detto Renga? Renga ha detto che il sistema non ti fa né per Juventus né per Roma, perché tanto non contano nulla. No, ci sono due cose secondo me inquietanti della partita della Roma di ieri, a parte gli errori di Garcia, che secondo me ha esagerato col turnover e doveva, secondo me, adesso diciamo col senno di poi, provare a fare la cosa inversa, cioè mettere la squadra migliore in campo, cercare di chiuderla in un'ora e poi fare dei cambi eventualmente. Detto questo, siamo tutti bravi da qui, perché Garcia rimane un ottimo allenatore, questo nessuno lo discute, però insomma Questo mi sembra un elemento. La seconda cosa è che ho visto Borriello e Ashley Cole sorpresi dalla telecamera mentre ridevano con la Roma sotto. Questa cosa è un dettaglio, per carità, non è che è colpa loro, cioè, ci sono, non possiamo metterci a fare il Grande Fratello, però insomma, secondo me c'è qualcosa che non quadra. No, secondo me è una cosa che non va bene, comunque non va bene, qualcuno della Roma oggi questa cosa qui deve averla fatta sentire. La terza è che non si può festeggiare per 30 secondi il gol del 2-2. Secondo me è una squadra che pareggia col Sassuolo. Sono sì. piccole cose. In questo c'è una differenza abissale con la Juventus, che sotto di un uomo so, nel però... derby col Toro ha cercato quel gol lì, anche a rischio magari di perderlo. Aspetta che lo chiediamo a Fabrizio Ravanelli. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Non si può, c'ha ragione Pierre, esultare 30 secondi perché hai pareggiato e hai ancora magari un paio di minuti in casa col Sassuolo. Cioè c'è qualche segnale che una squadra non ha la mentalità giusta, che non tutto fila? Ma ci sono state diverse problematiche. Adesso credo che la Roma, al di là di tutto, non sia nel suo miglior momento, e magari anche quando non sia nel miglior momento si possono ingigantire anche inconsciamente delle problematiche che ha in questo momento la Roma, perché fa fatica a giocare, ma soprattutto prende troppi gol. A livello difensivo è quasi sempre in difficoltà, squadra un po' sfilacciata nei reparti, un po' troppo lunga, prende delle ripartenze con la squadra tutta sbilanciata, anche nell'espulsione di De Rossi era veramente piazzata molto male, che tra l'altro l'espulsione gli ha portato, al di là di giocare in 10 uomini, ma è stata fortunata perché sarebbero stato un 2 contro 0, sarebbe stato il terzo gol e avrebbe chiuso credo la partita. Ma al di là di quello, credo che è vero, non ci sta di esultare, perché una squadra che ha la mentalità per poter lottare, per poter vincere, magari cerca in tutti i modi, anche in 10, di fare sua la partita. Ma con l'Inter però è piaciuta la Roma, Fabrizio. L'Inter ha giocato benissimo, dai. Mi sembra che ieri, non so che ne pensi Fabrizio, la Roma abbia pagato il troppo turnover. Una squadra forse con la testa e con troppi uomini City, no? Importanti. Probabilmente ha pagato l'effetto Manchester City, l'effetto Champions League, l'effetto attesa. Pensare al futuro e non godersi il presente, ed era un'occasione, perché dopo il pareggio della Juve la Roma ieri aveva un solo risultato, che era vincere. Sì, credo sì, credo che questo possa essere una giusta osservazione. Ha fatto magari un turnover eccessivo, e magari la squadra, quando gioca delle partite importanti a livello di Champions League, anche inconsciamente il giocatore è più propenso a pensare alla partita importante, e magari non dico sottovalutare l'impegno di campionato, ma io ho avuto la fortuna e il piacere di giocare partite di campionato e di Champions. Inconsciamente la testa ti va sicuramente alla Champions. Sì, è successo anche credo alla Juventus venerdì sera un po'. Sì, ma soprattutto in una sfida che sei dentro o fuori, quindi è una partita importantissima. Sì, però secondo me, con tutto il rispetto ovviamente per i 10-12 milioni di euro che possono arrivare, tra l'altro le buone notizie per la Roma di ieri, adesso può essere cinico dirlo, arrivano dall'infortunio di Agüero, che comunque è un giocatore clamorosamente importante per il City, e chiaramente la sua assenza in questo momento però dire questo. No, ma ci mancherebbe altro, ma gli auguriamo tutto il bene e la guarigione. Ci noi mancherebbe siamo altro. Poco corretti politicamente. No, pensavo fosse chiaro, lo ribadisco, la buona notizia è che chiaramente il City senza Agüero, al di là di tutti i discorsi degli in bocca al lupo che facciamo, magari potrà essere un pochino meno complicato da battere. Questo però secondo me la Champions della Roma dovrebbe essere il campionato, perché la competizione dove la Roma ha la possibilità di arrivare fino in fondo non credo sia la Champions League. Adesso ce l'hai lì, è il momento del dentro fuori, quindi io penso che abbia pesato. Per me ieri sarà sconcertante. Poi per carità, c'è l'errore di De Santis, che sicuramente ha un effetto anche psicologico sulla partita, il 2-0 immediato, ci sono delle attenuanti, però io mi aspettavo il Sassuolo che sta facendo benissimo, però io mi aspettavo una squadra diversa, che scendeva in campo con la voglia di... Quanto può pagare ancora la tassa De Santis la Roma? No, non lo so, perché comunque gli errori cominciano a essere due, tre, quattro, alla fine perdi, cioè, errori, punti. È stato uno straordinario portiere, sta giocando una pessima stagione. Dico, quanto la Roma può permettersi di insistere su un portiere che Fabrizio, non è in condizione? Ma io dico che purtroppo è un momento negativo per De Santis. Un portiere, si sa, quando sbaglia poi prende gol, è il ruolo più difficile di tutti, ma credo che poi la difficoltà credo che sia anche nel poter gestire il dopo partita. Credo che qualche volta De Santis abbia gestito male il dopo partita. Sì, soprattutto a Mosca, con quella pensi più a Mosca o a Torino? Tuffo carpiato avanti e indietro. Tutte e due credo che sia stucchevole. Io che non ho mai sentito Buffon a dire certe cose, credo che lui è un ottimo portiere, è un grande campione, deve essere bravo anche nel gestire il dopogara. Non è facile, lo so, però se uno vuole dare un esempio deve essere anche molto bravo nel gestire il dopopartita, che credo che poi alla fine conti e conti molto. Fabrizio, secondo te la Juventus con l'Atletico che deve fare? Si accontenta del biscottino, passa il turno senza problemi, o cosa che penso io, deve moralmente puntare al 2-0, perché la Juve quest'anno deve pensare comunque alla Champions, di andare avanti, non si può accontentarsi di un secondo posto che poi ti porta a un sorteggio da incubo negli ottavi. Sì, questo è vero, io credo che la Juventus nella sua mentalità, nella sua storia, non ha mai giocato per fare il biscotto, ha sempre cercato di vincere. Credo che quando si va a Torino si capisce che c'è solo quella mentalità, c'è un solo scopo, cioè, che è quello di vincere. Credo che martedì farà tutto il possibile per poterla vincere, poi deve essere brava a capire durante la partita che se la partita non si può vincere perché l'Atletico è in ottimo momento, perché magari sta anche meglio della squadra juventina in campo, dovrà cercare di salvare il salvabile e puntare magari poi al secondo posto. Voi che Juve vi aspettate, Pier? Ma io penso che non si debbano fare calcoli, veramente, al di là delle frasi di circostanza, no? Spesso lo si dice, meglio non rischiare. È chiaro che è una partita dove non è che basta la volontà per poterla vincere, non è che basta l'impegno, perché l'Atletico Madrid non è più debole della Juve, la Juve deve dimostrare di essere all'altezza di questa qualificazione. E io non credo che l'Atletico Madrid verrà in campo con la voglia di fare il biscotto, secondo me non ce l'ha con mentalità, una forza talmente grande che mi sembra sarei veramente sorpreso. No, però credo che molto dipenda dall'atteggiamento della Juventus. Sì. Non giriamo intorno al discorso, se la Juve fa una partita conservativa è un conto, se la Juve se la gioca puntando a quel primo posto può uscire. No, la Juve sta bene, non vedo perché non se la dovrebbe giocare. La Juve sta bene, è in un ottimo momento. Ce li ha sempre secondo me nella testa in Europa, l'abbiamo visto anche a Malmo, sì, dove però non è stato un primo tempo straordinario. Però diciamo che ultimamente è sempre meglio la Juve in Italia che la Juve in Europa, però c'è stato un netto miglioramento nelle ultime due uscite europee, e quindi insomma i segnali del passo avanti ci sono, dai. Prima di salutare Fabrizio, Llorente o Morata? Cioè, chi è il compagno per Tevez? Io credo che sia Morata, al di là di tutto ultimamente quest'anno non mi sta piacendo Llorente per niente, è fuori condizione secondo me. Fa una grossa fatica a tenere su palla, ogni volta che deve andarla a scambiare quasi sempre la sbaglia, quasi sempre anticipato. Onestamente mi sembra un altro giocatore rispetto allo scorso anno, non voglio essere duro con lui, ma credo che anche lui lo sappia, perché non sta giocando da quel giocatore che abbiamo visto lo scorso anno. Però Tevez gioca un po' meglio con lui che con Morata. Ma io credo che Tevez giochi bene con tutti, al di là di tutto credo che sia anche una non lo so, che sia un luogo comune dire che si sacrifica Llorente, che con lui gioca bene Tevez. Io credo che quando ci sono giocatori che danno profondità come Morata, molto veloce, scattante, che sa superare l'avversario, io credo che comunque Morata sia un giocatore da tenere in grossa considerazione e di farlo crescere, perché è un giocatore, credo secondo me, giocatore del futuro della Juve. Sì, farlo crescere con moderazione, perché se poi esplode il Real Madrid ha la clausola per riportarlo, esatto, a Madrid. Farlo crescere piano, prima che crescere se ne piano. Prima che se ne accorgano. Grazie Fabrizio. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie a Fabrizio Ravanelli, sì, farlo crescere con moderazione. No, chiedo scusa ragazzi, è ora di smetterla. Chi sei? Dovete smetterla, tu non farmi il verso. Ma quando? Non te lo faccio, come ti chiami? Ecco, da dove telefoni? Non si può fare un discorso serio. Ragazzi, sì, è ora di finirla con questa storia. Io sono stufo di ascoltare sempre le stesse storie e le stesse cose. Sì, tipo? Come tipo? Con voi che fa di giornalismo spazzatura. Sì, ma io tipo quelli che insinuano che la Juventus venga favorita agli arbitri. Pardo, ma tu hai visto cosa ha fatto ieri l'arbitro, cosa ha fatto la Roma? E non ditemi che gli aiutini li danno alla Juventus. Vabbè, ha fatto un paio di errori, niente di drammatico, però ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando. Ragazzi, io rappresento la parte bella della storia della Juventus. Io sono buono, i cattivi sono gli altri. Sì, gli chi? I nomi. Ma non dire stitichezze, Pardo. Ieri il Sassuolo vinceva 2-0 e se il signor Irradi da Pistoia, folgorato sulla via di Damasco, non avesse concesso un rigore inesistente. Beh, oggi parlavamo di generoso. Poi non è neanche detto che fosse fuori gioco Florenzi. Possiamo star qui a discutere per mesi. Vedete che voi siete sempre dalla parte di quelli che sono contro la Juventus. È ora di smetterla. Sì. La palla praticamente ha sbattuto, per quanto riguarda il rigore, la palla ha sbattuto prima sul polpaccio del giocatore, poi sulla coscia sinistra, poi sulla coscia destra e poi di nuovo sulla coscia. Ma noi dovevamo fare la moviola 24 ore dopo alla radio. Col signor Moggi. Dov'è Moggi? Dov'è oggi? A Montisciano? Dov'è? Ma senti, Pardo, ma tu non riesci a dire una cosa che sia seria? Perché questo rigore, nemmeno un giornalista del Turkmenistan con l'Alzheimer direbbe cazzate. Sì, arrivederci Moggi, arrivederci. Leandro Mercu, il nostro imitatore, diciamo, altrimenti sì, qualcuno... No. Se no poi ci riprende. Dai, ci fermiamo, torniamo subito. 800 24 00 24, possono chiamare tutti tranne Moggi. No, anche Moggi. Anche Moggi, ma stai scherzando? Moggi. Anzi. Tutti convocati. Eccoci qui, Valentino da Roma. Valentino, prego. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, io vi ascolto spesso, no? Sì. Spesso condivido con voi molte cose, altre volte non sono in accordo come stasera. Ogni volta che c'è qualche cosa da discutere sugli arbitri, che secondo me andrebbe lasciato in secondo piano, forse anche in terzo o in quarto, viene fuori la solita storiella che a fine campionato gli errori si compensano e vengono tirati in ballo gli errori della giornata di turno per far vedere che gli errori precedenti erano comunque legati a certe situazioni. Io non credo che vada affrontato così il problema degli errori arbitrali, nel senso, mi sembra poco professionale, perché dire che gli errori che ci sono stati ieri col Sassuolo, ammesso che di errori si possa parlare, visto che ne parliamo da due giorni vedendo e rivedendo le moviole, si può di Torino, no? Non compensano niente, no, nessuno ha detto questo. No, nessuno ha detto questo, semplicemente ci sono stati degli errori e possiamo parlarne finché vogliamo per ripetere che ci sono stati. Ma gli errori di Torino pesano perché si trattava di uno scontro diretto, una partita fra due squadre a punteggio pieno che aveva una forza anche psicologica sul futuro della stagione. Con due squadre, 5 partite, 15 punti, bisognava scoprire chi fosse la più forte, chi metteva la testa avanti. E quindi hanno pesato e non mi pare che non ne abbiamo parlato. Ecco, appunto, però oggi se oggi uno non parla allora fa censura e vuol dire che c'ha gli occhiali giallorossi. Ma posso dirti di più? Valentino, un momento, posso dirti di più? Non ci fosse stato il tocco di mano di Pizarro al 94esimo, avremmo parlato certamente anche della questione Chiellini. Poi lì alla fine si è fatto pari e poi arbitrava Rizzoli, che non ha preso una sufficienza da un giornale, ma è una garanzia per tutti. Anche questo è tema, secondo me, di cui si potrebbe discutere. Ma no? Possiamo affrontare il discorso al di là dell'episodio del mano non mano, perché poi il fallo di mano in area l'hanno talmente complicato come regola che io sfido qualsiasi arbitro in quel momento a prendere la decisione giusta, no? Perché la possiamo discutere sempre in una maniera o nell'altra. Però dopo Juve-Roma mi sembra che sia intervenuto Nichi nell'arco di poche ore a dire la sua sull'arbitraggio, eccetera eccetera. Sì, non mi sembra che a proposito difendendo l'indifendibile. Difendendo l'indifendibile, ma è l'intervento che io discuto. Poi sul resto possiamo avere le opinioni che vogliamo. Non mi sembra che quando gioca la Fiorentina, il Milan, Roma, eccetera, Nichi intervenga. Nichi ha un dolore selettivo, ma questa è una cosa che oramai conosciamo da qualche anno. Però l'altra cosa che vorrei paragonare, no? Quello che io vedo nella classe arbitrale italiana, e per cui io sono convintissimo che loro sono in soggezione verso certe squadre, ma sono talmente convinto che vedo le differenze non tanto sugli episodi ma sui comportamenti. Ieri Sassuolo Roma, alla partita è finita con due espulsi e una serie di ammoniti, no? Sì. Fiorentina Juventus ha avuto lo stesso ardore, lo stesso agonismo. Andiamo a vedere quanti sono gli ammoniti, andiamo a vedere come è stata gestita la partita. Ne hanno ammoniti 5. No, Fiorentina Juve ne hanno ammoniti 5, credo. Sì, sto andando a memoria, sì. Valentino. Sì. E quanti sono gli espulsi? Sì, però, zero. Io quello che non capisco, Valentino, se lei ci ascolta tutti i giorni, quando c'è stata Juve Roma e la Roma si è lamentata, a mio avviso giustamente, perché nella quantità di episodi di quella partita sicuramente la Roma è tornata a casa arrabbiata, e l'abbiamo detto. Ieri è successo che su Roma Sassuolo c'è un rigore generoso e c'è probabilmente un fuorigioco, dubbio, poi c'è anche dubbio. Chi dice Graziano Cesari, il moviolista della televisione per la quale lavoro, con la sua riga dice che è buono per una questione di millimetri. C'è anche chi dice, come la Gazzetta, che quell'azione parte da un fallo di mano di destro, quindi possiamo stare qui ma quanto sì, vogliamo appunto, però insomma, io credo che sì. Fatemi parlare con Lorenzo da Firenze, che vai. Ci sta ascoltando credo al telefono dall'inizio della seconda ora. Lorenzo, prego. Sì, buonasera a tutti. Eccoci. Senti, io vi devo dire una cosa, io vi ascolto tutti i giorni. Sì. Però se continuate a parlare di arbitri io spengo la radio, perché non se ne può più, sinceramente. Parla di quello che vuoi. Poi, ripeto, sì, noi sì, abbiamo fatto venerdì l'esperimento di comunicazione. Sto annoiando a sentire di arbitri, di inizio. Se ci fanno le domande che dobbiamo fare, mettere giù il telefono. Prima cosa volevo dire a Genta, volevo fare un appello a Genta, il mitico presidente De Laurentiis, che fine ha fatto che non si sente qui, perché per me è il numero uno, lui sì che vale la pena sentire. Lo stiamo cercando. Sai, Napoli in silenzio grazie. Stampa. Parla più nessuno, è un periodo di bassa è il numero uno, assoluto. L'inutilità dei silenzi stampa, andiamo a aprire questo file, questa cosa. L'inutilità dei silenzi stampa. Il Napoli è in silenzio stampa, non vengono gli ospiti, non parla nessuno. Oggi viene, Benitez ogni tanto sì, no. Benitez, i risultati. Io auguro al Napoli ovviamente di crescere e di risalire, però credo che la cultura della comunicazione, che viene dagli sport americani, è la cultura che si vince o si perde, si parla, perché è una forma di rispetto, ma non tanto nei confronti dei giornalisti, nei confronti dei tifosi, certo, che hanno voglia di sentire, di capire, di farsi due risate, di sentire i propri campioni parlare, se sono felici o se sono tristi. Questa mia idea, però poi insomma invece noi ci limitiamo a leggere su Twitter. Prego ormai. Lorenzo, scusi. Prego Lorenzo. Sentivo parlare del Napoli poco fa. Sì. Sì. E per me è già un fallimento Benitez, ma ti spiego perché. Perché come ha detto Zeman, il Napoli c'è un attacco di mostri. Però lui sbaglia per come gli schiera, poi ci mette due mediani col 4-2-3-1. Due mediani dovrebbero essere due incontristi che non proteggano, giusto? Per me è un fallimento, per me ha già fallito il Napoli. Beh, dipende, insomma, se non arriva terzo. Ad oggi è chiaro. Forza, secondo me, Oggi è il 7 dicembre, è chiaro che di cose nei prossimi 7 mesi ne possono succedere parecchie. Detto questo, ad oggi la stagione del Napoli è assolutamente negativa, non ci sono dubbi. Ci si era illusi che ci fosse un processo di crescita dovuto a una serie di risultati utili. In realtà i risultati utili sono continuati, sì, sono 11, sono 11, però sono poi se pareggi col Cagliari, se pareggi in casa con l'Empoli, molto fragile. Poi Napoli. Per me rimane la favorita per il terzo posto, perché mi sembra la squadra nettamente più forte e più attrezzata e potenzialmente tra quelle che inseguono, però molto fragile. Ti ricordi quando c'era arrivata quel terzo posto, abbiamo detto tutti adesso chi glielo leva, e invece no. Parliamo un pochino di Inter Udinese, vai. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra normale. No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. Io non so dove non sono d'accordo. Mi spiace Stramaccioni, non sono d'accordo perché allora il primo tempo la partita non l'avete fatta voi. Sì, sì. No, poi ripetitelo. Adesso fuori d'arte dall'intervista, ma che molto bene, questo è un macello, male male, ma quale bene bene, male male male male, un disastro, naggia a me, ho fatto sta cavolata più a questo, un macello proprio. Immaginavamo questa spensieratezza tattica dell'Inter, dell'allenatore dell'Inter. Sì, allenatore dell'Inter che oggi è allenatore dell'Udinese. Saluto Andrea Elefante, collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Come va? Benissimo. Grandissimo, come va, Come va? Uno dei maggiori conoscitori di Andrea Stramaccioni e anche di Roberto Mancini. E anche di Inter. E anche di Inter. E anche di vita, Elefante, diciamo la verità. Di qualcos'altro? No, il traffico. Beh, la vita comprende tutto, comprende il traffico, comprende le storie dei media, la Gazzetta forse, dello Sport. Sì. Forse più di tutti questi di Dejan Stankovic. Vedi, lo so, Stankovic, Materazzi. Ma fammi fare una domanda, Andrea, perché oggi sul Corriere della Sera Beppe Severnini ha riaperto il dibattito parlando di Cambiasso, dicendo Toir deve fare un investimento, deve riportare Cambiasso a Milano. Stankovic, c'è mai stato un momento in cui ha potuto essere qualcosa anche per questo nuovo corso dell'Inter? Non parlo ovviamente da giocatore, Solo chiacchiere, ha parlato con Toir un paio di volte, ma erano tempi in cui tutto era ancora abbastanza indefinito, Toir aveva altri problemi da gestire, posizioni in società più influenti, e proprio per questo Stankovic, stanco di aspettare, appena Stramaccioni ha chiamato ha detto sì. E ha fatto benissimo, visto come vanno le cose a tanti altri ex giocatori dell'Inter. Mi riassumi, diciamo, a parte i primi mesi, no? L'esordio in concomitanza con Guarin, i primi mesi all'Inter di Stramaccioni, abbastanza carichi comunque, insomma, di spensieratezza. Mi riassumi quella stagione lì così strana, cominciata benissimo con la vittoria a Torino, con un Inter che a tratti ha giocato veramente un gran calcio e finita malissimo. Che è successo, vissuta nella testa di Stramaccioni? Il problema è che riassumere in poche parole, come sai, è molto difficile, perché quell'anno di cose ne sono successe tantissime. Sicuramente ci sono stati dissapori anzitutto con lo staff medico, che poi hanno comportato frizioni e difficoltà nel recupero di giocatori. Stramaccioni si è trovato ad avere pochissime forze a disposizione, non solo per fare il suo calcio, ma per giocare in generale a pallone. E come sempre succede all'Inter, una difficoltà ne ha tirata un'altra ed è andato tutto un po' a rotoli, però ci sono tante sfumature che andrebbero raccontate, tante piccole frizioni con dirigenti, fra dirigenti. Era un anno particolarmente difficile e Stramaccioni aveva bisogno di tutto meno che di trovarsi in un casino, se si può dire questo. Sì. Ma tu pensi che possa essere un grande allenatore, un buon allenatore, un ottimo allenatore? Perché i primi mesi all'Inter veramente sembrava di avere a che fare anche per alcune caratteristiche proprio umane, no? Di rapporto con i giocatori, di veramente di spensieratezza. Cioè, secondo me aveva colto perfettamente il mood della squadra. Poi anche un bravo comunicatore. Un bravo comunicatore, tante cose veramente da predestinato. Poi è finita malissimo. Pensi che avrà. Che statura. Io penso che lui sarà un buonissimo allenatore se potrà sfruttare le sue capacità tecniche e anche di far giocare la squadra secondo i suoi principi, se appunto avrà la tranquillità di poter fare questo. Io credo che lui, avendo iniziato prestissimo, avendo iniziato giovanissimo, debba avere la possibilità di lavorare in un ambiente tranquillo e che gli faccia esprimere le sue capacità in maniera tranquilla. Se si trova da dover affrontare delle difficoltà, soprattutto se la società non lo aiuta, come era successo all'Inter, allora lì, come qualunque allenatore non particolarmente esperto, Stramaccioni può andare in difficoltà. Sì, Udine da questo punto di vista è una garanzia. Andrea, ti chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi parliamo anche un po' di Mancini e dell'Inter, perché chissà cosa sarà Stramaccioni, se è un buon tecnico, un ottimo tecnico. Di sicuro da questa sera cominceremo a avere risposte su cosa sarà questo campionato dell'Inter, e il passaggio di questa sera non è un passaggio banale. Traffico. Ho fatto 10 anni all'Inter, non sono pochi, e di sicuro domenica sera ci saranno tante emozioni. Tornare, diciamo, in un stadio dove ho fatto tante battaglie con la maglia dell'Inter, e mi farà piacere vedere di nuovo gente nero-azzurra, ma quando arbitro darà inizio di gara dobbiamo pensare a Udinese. Tutti convocati. Sì, passaggio decisivo, comunque importante, è quello di questa sera per l'Inter, perché ne stiamo parlando con Andrea Elefante, inviato della Gazzetta dello Sport. Un punto in due partite, minimo sindacale. Da oggi però deve cominciarsi a vedere il valore aggiunto di Mancini, Andrea. Da oggi, e aggiungerei fino a Natale, perché le partite chiave mi sembrano quelle di stasera, ma anche le successive due. c'è poco da fare. Io credo che se l'Inter davvero, come dice Mancini, vuole continuare a pensare al terzo posto, in queste tre partite deve fare 9 punti. Mancini è un allenatore, come tutti, più di tutti, che ha bisogno di entusiasmi, ha bisogno di credere in quello che fa. Sicuramente l'Inter non è la squadra ideale per i suoi principi di gioco, probabilmente i giocatori che sta scoprendo non sono neanche così forti come lui si aspettava arrivando all'Inter. Soltanto vincendo queste tre partite credo che Toir si convincerà eventualmente a intervenire sul mercato a gennaio, che è una condizione che credo Mancini reputi, se non indispensabile, molto UEFA permettendo. A proposito di Toir, parlavo qui col dottor Capuano proprio di questo, cioè mi sembra, ma insomma io condivido abbastanza, che venga percepito, al di là evidentemente del fatto che è quello che ci mette i soldi e quindi ha un suo ruolo, ancora come pochi soldi. Vabbè, comunque mi sembra che venga ancora percepito come una figura un po' lontana, no? Da certi stereotipi dell'interismo, da un certo tipo di cultura e anche di letteratura nerazzurra che esiste, che è importante poi, perché il calcio non è soltanto evidentemente fatturati come direbbe Benitez, ma è anche inevitabilmente qualcosa di più romantico. Ti sembra così? Per lui il parallelo è complicato a prescindere, perché arriva dopo Moratti che è il prototipo del presidente vicino alla squadra. Sicuramente Toir non potrà mai esserlo, ma neanche minimamente vicino quanto lo era Moratti, ma io non credo dipenda tanto da questo. Cioè, è chiaro che avere una proprietà presente è importante, ma credo che ancora più importante sia che la squadra percepisca idee chiare, volontà di investimenti o comunque di credere nel progetto. In questo senso la scelta di Mancini è stata vissuta bene dalla squadra e anche dall'ambiente, però alla fine questi sono tutti discorsi. Se fra un mese l'Inter continuerà con la media punti fatta fino adesso, anche di Mancini si comincerà a dimenticare il grande entusiasmo che ha portato e si cominceranno a sottolineare le carenze che questa squadra ha, indubbiamente. Possiamo anche accorciare l'arco temporale a fra 3 ore, se Inter-Udinese non avrà il risultato che è l'unico che può andare bene a Mancini, può andare bene all'Inter e può tenere in vita quella speranza che renderebbe anche accettabile l'investimento che è stato fatto su questo cambio di allenatore. Poi ci sarebbero mille cose da chiedere anche per capire a che punto è il lavoro di Mancini, perché ripeto, settimana prossima arriva la troica dell'UEFA e forse anche Mancini avrà più chiaro che non sarà semplicissimo fare mercato a gennaio e tantomeno a giugno, perché poi le cose vanno dette anche chiaramente. Andrea? Sì, tant'è vero che anche se l'Inter smentisce questo, rimane attuale l'idea che in realtà il contratto di Mancini non sia triennale ma sia soltanto fino a giugno, con la possibilità di ridiscuterlo a giugno. Anche in questo senso, certo, quello che dirà l'UEFA è importante, ma fondamentale sarà come finisce questo campionato e come l'Inter arriverà all'Europa e quale Europa. Sì, bisognerebbe anche spiegare a tutti i profeti dell'interismo perché l'Inter è ridotto in questa maniera, perché si trova in quelle condizioni. Grazie Andrea. Ciao, grazie a voi. Grazie Andrea Elefante. Abbiamo ancora Riccardo da Genova che ci aspetta da qualche minuto. Riccardo. Sì, buonasera. Eccoci. Oggi ero allo stadio, sto rientrando perché in realtà vivo a Milano, quindi oggi è stata una grande soddisfazione per me, tifoso chiaramente rosso-blu. A me è sembrato un brutto Milan, nonostante dimmi. Una cosa, un brutto Milan sicuramente, però dico un grande Genoa per come si è, meno intenso di altre volte. Più maturo, e ti dico la verità che secondo me qua stiamo sottovalutando uno, forse il giocatore migliore, a parte forse la Juve e la Roma, che c'è nelle altre squadre, che è Diego Perotti, perché Diego Perotti è di un altro pianeta. Diego Perotti l'abbiamo descritto prima, è una scommessa un po' come è stata Thiago Motta. Thiago Motta è riuscita perfettamente come scommessa di recupero a Preziosi e al Genoa, e Perotti sta facendo Perotti potenzialmente ha anche più qualità, secondo me. Cioè Thiago Motta sta giocatore. Aspetta un attimo, 14 giornate. Cioè, sì, va bene, 14 giornate, però 26 punti. Cioè, sì. Non sto discutendo Genoa, anche dire Perotti è certamente la prossima un giocatore che sicuramente ha avuto un andamento di carriera ondivago. Esatto, adesso è in una fase molto positiva. Non so se tu... era finito. No, Ondivaga ha avuto il problema dell'infortunio. Ripeto, in questo la sua parabola con quella di Thiago Motta può essere, ci sta, assolutamente, può essere assimilabile. Tu stasera sei a San Siro, sì, Inter-Udinese, e quindi mi devi fare il pronostico. Io penso vincerà l'Inter. Non so, questa venerdì non li ha fatti. No, non li ho fatti. Mi sono salvato. Non ti possiamo dire quanto hai fatto. Settimana l'avevo beccati tutti, però pensa l'avevo che presi tutti. Puoi addirittura fare Sassuolo di tre primo partite. Tempo 2, secondo tempo X. Sì, hai le prove. Ma noi Sassuolo diamo sempre le prove. Un foglietto. Allora, Inter Fiorentina Juve under. Andromelu, chi è? Chi è? Eccomi, sono qua, non mi avete interpellato, ma sì, a prescindere. Facciamo il pronostico di Inter-Udinese. Dai, allora, Pierluigi Pardo. Per me vince l'Inter. Vince l'Inter. 3-1. Carlo Genta. Vince l'Inter anche secondo me. Serse Cosmi. Allora, io dico questo: Stramaccioni vince, lo posso assicurare senza esitazioni. Quindi il 2. Quindi mettiamo il 2, vince l'Udinese. No, vince l'Inter. Dopo la batosta della Roma deve assolutamente vincere. Sì, Stramaccioni allena l'Udinese. Sì. Vabbè, a prescindere da questo dettaglio, come cantava Vecchioni, non è da questi particolari che si giudica un giocatore. De Gregori. Chissà quanti ne visse e quanti ne vedrà, i giocatori tristi che non hanno vinto mai. Era De Gregori, sì. Ma è morto, mi dispiace. No, qui mi dirà anche, scusate, ma se c'è il maestro, Chiamiamo De Gregori. Non scherziamo. Vabbè, insomma, lo sapete che io ogni tanto devo scherzare. Sì, perché noi infatti lo sappiamo che non è che sei così. Sì, è solo per sperperare la tensione. Sì, ecco. Allora, a prescindere, sì, ragazzi, a prescindere da questi particolari, sì, io dico che finisce 2-2. 2-2, quindi sì, pareggio. Che è un po' il risultato del weekend. Sì, 2-2 Napoli. Chi segna? Segna tripletta Campagnaro. tripletta come? Ciao Serse. Ciao Campagnaro, credo non giochi nemmeno, no? Dipende. Credo di no. Era il nostro grande Andro Mercu. Per me l'Udinese a 3 stasera, sai le classiche informazioni di Paolo Inutile. Per me gioca a 3, ci sono gioca due. Dietro, per me gioca a 3, c'è il Inter gioca col tridente pesante. Ma che, beh, pesante. E beh, pare che tra le opzioni ci sia anche Palacio, Icardi e Osvaldo. Clamoroso. Spensierata. Fischi per sarebbe lui, pubblicità per noi. Ma subito dobbiamo chiudere. Nella grafica idea di Giovalli. Pessima idea. Dobbiamo chiudere, però vi posso dare due belle notizie. Icardi. Beh, io sì, non giocherei con due punte Kovacic. Credo che alla fine giochi così, però vediamo fra una mezz'oretta. Due belle notizie: Paltrinieri, oro, mondiale di vasca corta di Doha nei 1500 stile libero. L'altra bella notizia è che il Real Madrid in 12 ore ha identificato 17 tifosi che avevano insultato Messi e la Catalunya, sì, e li ha espulsi a vita dal Bernabéu. Come in Italia. Applausi, standing ovation, come in Italia. Uguale. Un ringraziamento a Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato e Carmelo Lauricella in regia. Che sono quei due brutti lì? A domani, sì, sono loro. A domani per voi due e a domenica dalle 17 per il weekend. Ma questa è di Confindustria, bisogna farsi la barba, qualità. Grazie. Baci e pace bene a tutti. Tutti convocati.